Barack Obama ce l'ha fatta, la storia con la S maiuscola non è finita, come diceva Fukuyama, con la caduta del muro di Berlino e del comunismo, ma continua, apre un nuovo capitolo, quello che potrebbe vedere per la prima volta un afroamericano figlio di un kenyota e di una donna bianca alla guida degli Stati Uniti d'America, un capitolo avvincente, dà fiato alle speranze dei giovani, risponde alla domanda forte, insistente per un cambiamento radicale a Washington, rappresenta un balzo nel futuro, supera di slancio i pregiudizi razziali. Da ieri sembrerà normale e non impossibile che un nero possa sedersi nell'ufficio ovale. Sappiamo che Hillary Clinton ancora resiste. Ieri notte ha rivendicato di avere dalla sua la metà del partito e chiede la vicepresidenza. Fiato sprecato. Obama ha superato la fatidica soglia dei 2118 delegati. Sarà lui a dettare le regole del gioco, almeno così vuole la tradizione americana. I Clinton dovrebbero conoscerla bene. È la stessa che portò un giovane di nome Bill, orfano di padre, nato in un paesino dell'Arkansas che si chiamava Hope, Speranza, alla Casa Bianca del 92, quella che ci avrebbe dato la rivoluzione internet, grande benessere e uno sguardo al nuovo millennio che si apriva davanti a noi.